Marco, evangelista, presenta il racconto della giornata tipo di Gesù, una cronaca dettagliata delle sue fondamentali attività quotidiane, incontrare persone, incrociare gli sguardi, guarire, pregare e annunciare. Per la verità, fatta questa premessa, io direi che si può costruire la riflessione sulle scritture di oggi sul rapporto, leggendo naturalmente la scrittura senza moralismi, senza fondamentalismi, senza preconcetti. Le scritture di oggi portano a riflessione sul rapporto tra due necessità. La prima deriva dalla stessa condizione dell'uomo, così come appare, ci viene descritta dalla pagina di Giobbe e anche dal Vangelo. La seconda è la necessità che nasce dall'amore, testimonio che porta notizia di salvezza. I giorni del mercenario sono anche i nostri giorni, giorni più veloci di una spola, dice il testo di Giobbe, e sono finiti senza speranza. C'è l'immagine di Gesù che incontra alle porte della città una turba, molta gente, di malati, indemoniati, ed è una pagina straordinariamente eloquente. Dentro queste due necessità, la mia fede è interpellata. Allora provo a dire, un passaggio duro da considerare, certo. Non potrei parlare del Vangelo se non scendessi a considerare la condizione di fragilità, di precarietà, di infelicità dell'uomo come tale. Quando ci diciamo che la nostra vita si consuma come spola, che i nostri giorni finiscono senza speranza, non si scandalizzi nessuno. Ci diciamo una verità di Dio, ma perché? Perché è la verità dell'uomo. È la nostra condizione. E quando ci avviene di scontrare in episodi, in avvenimenti, in esperienze, in situazioni, questa necessità ci fa gridare le parole di Giobbe contro il cielo. Ma chi sei tu che te la prendi contro una foglia secca? Perché perseguiti l'uomo che hai creato? Interrogativi che non mutano neanche col mutare dei tempi. E chi, come tutti noi per la verità, chi scruta la condizione umana in tutte le sue fragilità, rischia di rimanere bruciato nei suoi occhi, nel suo cuore, nella sua coscienza, perché è uno spettacolo insopportabile e ne abbiamo di reportage in questi giorni anche. Ma se poi viene da lui la parola della fede, sarà una parola profonda. Perché profonda? Perché misurata sulla realtà dell'uomo. Non parole consolatorie, destinata a consumi pubblicitari, retorici, di convenienza. E Gesù, Vangelo, parla, incontra persone, guarisce, salva, libera. È vero, noi non abbiamo altro in mano che questo messaggio. Eppure, se c'è un dono che l'uomo attende, è un dono di sapienza. È il sapere che di fronte alla ruota delle necessità c'è opposta la promessa dell'amore stesso di questo Dio, che ha affidato le sue opere all'amore. Questa è anche la nostra sfida. Due considerazioni, due sottolineature sempre del Vangelo per concludere. La prima riguarda la suocera di Pietro, che era a letto con la febbre, e Gesù, avvicinatosi, la prese per mano e la sollevò. Passaggi stupendi dal punto di vista proprio della relazione tra umani. La compassione delle mani che si cercano, le mani disarmate, è l'unico modo perché il deserto della storia si copra di un'oasi di pace. Gesù la prese per mano. Un gesto così bello, così semplice, così familiare, così confidenziale. Prendere per mano è il gesto del padre e della madre con il loro bambino. È questo il gesto di chi è caduto e cerca ancora di guardare in alto. Questo prendere per mano di Gesù non è tanto un gesto affettuoso e basta. È un gesto che fa cercare Dio. L'ultima considerazione è quella di questa folla di indemoniati. Cioè, perché Marco, l'evangelista, insiste tanto sulla liberazione dei demoni? A Marco, l'evangelista, sottolinea che c'è un modo diabolico, di confessare Cristo. Il riconoscere in lui solo l'uomo dei miracoli, l'uomo potente capace di risolvere tutti i problemi. Questo è un indemoniato. L'indemoniato è il simbolo dell'uomo che soccombe al male. Gesù invece è colui che crea nuove capacità di vita. Aggiungo, anche la morte è considerata come esperienza capace di creare nuova vita. Ci sbalestra un po' questo. L'insistenza allora sulle guarigioni è dovuto al fatto che la liberazione che Gesù porta è liberazione da ogni male. Come dire che qualsiasi malattia e devianza del piano di Dio, che vuole invece l'uomo felice. Notticina. Allora ogni impegno professionale della scienza, della conoscenza del mistero dell'uomo, per l'eliminazione della malattia, così come contro l'ignoranza, è vista come testimonianza che Dio è contro il male, ogni male, e viene negata la concezione del male come, una volta si diceva, provvida sventura, e come mezzo di purificazione. No, non accettiamo più queste descrizioni. Se entrassi nella testa e nel cuore di ognuno di voi, potrei sentire questa musica. Ma che ci viene a dire? Oppure, sarebbe bello? Oppure, sì sì, va bene, ma adesso io ritorno nella mia storia concreta, là dove metto i piedi e la testa e il cuore, naturalmente. Qui è la sfida della fede, nelle due necessità. Gesù, quindi, non guaritore, ma rivelatore di un'altra umanità. Possibile. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.